non li lava perché non vuol. Abita nello stagno, non lava i piedi perché non vuol. Il rospo non si lava i piedi, non li lava perché non vuol. Abita nello stagno, non lava i piedi perché non vuol. Oh, ma che puzza! È super facile questa canzone del rospo, no? Che ne dite di complicarla un po' cambiando solo una vocale? Cominciamo con la A. La raspa non sa lava pa, na la lava parca nan val. Abata na la stagna, na lava pa parca nan val. Ah, ma che pazza! E adesso andiamo avanti usando solo la E. Le respe ne se le vette, ne le leve perché nen vel. E vette nelle stegne, ne leve pe perché nen vel. E me che pezze! Le respe ne se le vette, me ne leve perché nen vel. Non lo lavo, po' porco non vuoi. Oh, ma che pozzo!